Nel settembre del 1992 il Centro Traumatologico di Torino aveva organizzato un torneo di calcio fra i vari reparti. In finale radiologia batté emergenza e accettazione, conquistando così l'ambito trofeo. Forse con qualche intento moraleggiante, questo torneo fu intitolato Coppa di Pietro Mani Pulite. Mi sovviene non solo perché oggi è questa coppia fra un giudice e un insieme di procedimenti giudiziari, grazie al trafficare di tanti autorevoli interessati, è stata scissa, ma mi sovviene la cosa anche per la recente scoperta di cui si parla sulle pagine della prestigiosa rivista medica The Lancet, concernente questa scoperta il ragguardevole fatto che per ridurre le infezioni ospedaliere basterebbe che i medici si lavassero le mani. Se dunque si impara che c'è più di un buon motivo perché un torneo di calcio ospedaliero venga intitolato Coppa di Pietro Mani Pulite, questa nuova consapevolezza scientifica si fa per dire, riporta alla mente la figura del dottor Ignazio Filippo Semmelweis, la cui parabola in proposito fu esemplare. Era un ungherese questo Semmelweis. Nacque a Budapest nel 1818 e lavorò come ostetrico per un certo periodo presso l'ospedale di Vienna. A quel tempo, in tutti gli ospedali d'Europa, la febbre puerperale ammazzava un numero incredibile di partorienti, qualcosa come una su tre, per lo più, guarda caso, fra le appartenenti alle classi meno agiate, perché le ricche potevano partorire a casa loro. A Vienna, Semmelweis, nel 1847, dopo lunghe e sofferte inquietudini, scoprì la natura contagiosa di questa micidiale febbre e ipotizzò che essa fosse causata dal fatto che gli studenti di medicina passavano allegramente dalla sala di sezione cadaveri alla sala parto senza lavarsi le mani. Istituì i lavabi in corsia e nelle sale operatorie, guadagnandosi così l'ironia, la derisione e l'astio dei colleghi, nonché lo sdegno dei superiori, fino al punto di venir cacciato a pedate. Morì presto, morì nel 1865, guarda caso infettato da un cadavere, dopo anni di lotte ossessive contro l'ottusità dei medici del suo tempo. La sua vicenda di martire dell'idea di lavarsi le mani è narrata nella tesi di laurea in medicina di Ferdinand Selin, che nel caso si digerisca la pesantezza letteraria può anche essere letta nelle edizioni Adelphi, nelle piccole Adelphi, insieme ad un icastico commento di Guido Cironetti. Da questa tesi qua e là emerge una domanda che non riceve risposta. Ma all'epoca chi aveva ragione? Semmelweis o la corporazione medica? Lasciamo da parte il senno di poi, stiamo parlando del momento esatto in cui Semmelweis andava in giro a dire lavatevi le mani. Ragioniamoci un momento. Nel 1683 Antonie van Leeuwenhoek, un olandese, si costruisce un microscopio con cui osserva vari animaletti dove a occhio nudo non si vedeva un accidente di niente, per esempio nella saliva, 164 anni prima di Semmelweis. Mettiamo un altro punto fermo adesso. Robert Brown, un botanico scozzese, nel 1827 si accorge dei movimenti irregolari di minuscole particelle sospese in un fluido, come fosse del polline in acqua, e inizia così a descrivere i moti molecolari, che vengono per l'appunto detti anche moti browniani, 20 anni prima della scoperta di Semmelweis. Voglio dire, con questi due punti fermi scelti un po' a casaccio, voglio dire che una cultura del microscopico, la consapevolezza che dobbiamo comunque convivere con un mondo invisibile al nostro occhio, c'era già al tempo di Semmelweis, c'era già da tempo e aveva prodotto una miriade di risultati. Poteva dunque la classe medica ignorare bellamente e anzi sbeffeggiare l'ipotesi di Semmelweis? La risposta più immediata è no. Ma forse, ecco, una risposta più meditata potrebbe dire che a livello strumentale no, non poteva ignorarla, ma a livello concettuale forse sì. Semmelweis articolava la sua ipotesi in un quadro concettuale non ancora pronto per accoglierla. Il trionfo dell'ideologia igienista avverrà soltanto molti anni dopo con Pasteur. Può darsi che le cose stessero così e può darsi che non si possa parlare di una vera e propria criminalità dei medici di allora. Può darsi, Com'è un po' il caso delle altre mani pulite, quelle di Di Pietro. Che c'era gente che rubassero lo sapevano tutti. Faceva parte di un livello culturale dell'epoca, così diffuso che presumibilmente ne era al corrente anche la magistratura. Ma che andassero presi con le mani nel sacco e condannati non rientrava ancora, diciamo così, nel quadro concettuale. Vien così da pensare che prima di un Di Pietro siano esistiti tanti magistrati Semmelweis, tanti che abbiano detto lavatevi le mani ricevendone in cambio sberleffi e insulti. A costoro allora, se mai davvero ci sono stati, a costoro vada il nostro pensiero riconoscente. Sally's good.